voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Gruppo Master, accessori per serramenti da oltre 30 anni. Di Adriano Palazzolo. La storia che vi raccontiamo oggi arriva dalla Puglia. 33 anni fa, in provincia di Bari, nasce il Gruppo Master, che oggi progetta e realizza accessori e componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio. Ha sede a Conversano e impiega oltre 290 dipendenti. Tutto è iniziato nei primi anni 80 da una piccola realtà artigianale specializzata in suppellettili per l'edilizia pubblica. Ad accompagnarci in questo viaggio nel tempo è Michele Loperfido, amministratore delegato di Gruppo Master. Mio suocero aveva iniziato questa attività andando ad produrre un articolo che si chiama giunzione d'angolo, comunque squadretta, che le aveva proposto un suo conoscente commerciante di Bari. Ha iniziato questa attività nel 1984, ma in realtà dopo 10 mesi questo, diciamo, distributore non le aveva pagato neanche una scadenza delle merci che aveva comprato. All'epoca io invece avevo un'azienda, una piccola azienda di produzione di serramenti. Mio suocero mi chiamò e mi chiese se gli potessi dare una mano. La combinazione fortuita qual è stata? Avendo una, diciamo, estrazione meccanica e un'esperienza nel settore dei serramenti, riuscivo a capire bene quello che, diciamo, il mercato chiaramente in quel momento, diciamo, volesse. E quindi andavo a cercare i prodotti, li progettavo e li industrializzavo. Quindi ho industrializzato la produzione da subito. E tutto questo chiaramente ci ha iniziato a dare dei buoni risultati già nei primi anni, tant'è che nel 1986 abbiamo costituito una società di capitali che abbiamo chiamato Master, e le nostre due aziende individuali, la mia e quella di mio suocero, confluivano nella società Master, che è una società di commercializzazione a quell'epoca, i nostri prodotti. L'aiuto di Michele risolleva le sorti dell'azienda del suocero e apre un nuovo corso nella vita imprenditoriale di entrambi. Gli affari cominciano a funzionare e si pensa a investire, ma nel 1993 l'Italia viene investita dalla svalutazione della lira. Nel 1993 noi decidiamo di fare un investimento perché nella sede in cui eravamo era diventata praticamente un po' piccolina, un po' stretta. Decidiamo di fare un investimento e andiamo nella zona industriale di Conversano, dove attualmente siamo, no? Al che purtroppo all'epoca ci fu la svalutazione della lira di circa il 30%, e quindi chiaramente il nostro commercialista ci invitò a non fare l'investimento all'epoca, no? Perché chiaramente era molto pericoloso. In realtà invece noi avevamo davanti a noi praticamente, come dire, un mercato che ci chiedeva il prodotto, avevamo dei progetti nella nostra testa e chiaramente noi abbiamo detto al nostro commercialista che volevamo portare avanti questo investimento. Abbiamo fatto un investimento di 2 miliardi e 200 milioni all'epoca e diciamo che tutto sommato è andato bene, perché la crisi è finita circa dopo 10 mesi, e nello stesso tempo nel 1995 è venuto fuori praticamente un'agevolazione fiscale che ci permetteva di avere il 50% a fondo perduto degli investimenti realizzati nei 2 anni precedenti. Il momento di svolta arriva a ridosso degli anni 2000. L'azienda punta tutto su un investimento di processo che la porterà da una realtà semi-artigianale a realtà industriale vera e propria. Nel 1998 noi decidiamo di fare un ulteriore investimento in una tecnologia che si chiama pressofusione di alluminio. È un impianto che trasforma la materia prima da alluminio solido a alluminio fuso per poter, diciamo, poi ricavare dei particolari tecnici. Questa pressofusione di alluminio ci ha dato la possibilità di fare il passo, come dire, da un'azienda semi, diciamo, artigianale, così come eravamo partiti anche noi, un'azienda industriale, poiché questi impianti sono impianti molto complessi tecnologicamente, ma che ci hanno dato la possibilità di essere praticamente, di andare sul mercato e di essere riconosciuti come un'azienda all'avanguardia. L'azienda così potenzia la propria presenza sul mercato, espandendosi ulteriormente anche all'estero. L'export oggi per il Gruppo Master rappresenta il 55% del fatturato, che in totale nell'ultimo anno è stato di 38 milioni di euro. In realtà diciamo che all'estero ci siamo affacciati da subito, infatti l'azienda l'abbiamo chiamata Master perché avevamo un sogno, il nostro sogno era quello di andare oltre confine. Abbiamo dato un nome che è abbastanza comune, Master, ma che fosse chiaramente abbastanza, come dire, orecchiabile oltre confine. Quindi il nostro sogno era di produrre chiaramente per il mercato nazionale, per cui noi abbiamo oggi un 45% di produzione che va nei mercati nazionali, però il nostro sogno era di andare oltre. Infatti già dal 1986-87 abbiamo iniziato a esportare, avendo conosciuto un nostro cliente israeliano, da subito abbiamo iniziato a produrre per i mercati esteri. Però devo dire che la svolta l'abbiamo avuta nel 2000, quando abbiamo iniziato a costituire un'area commerciale con export manager dedicati chiaramente all'estero, all'internazionalizzazione. Sul finire degli anni 2000 arriva la crisi economica. Il gruppo ne esce più forte, facendo quello che ha sempre fatto: investimenti. È il momento di puntare su ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e innovazione di processo. Nascono il Master Lab e l'attuazione del metodo Lean. Il 2008 per noi è stato un momento di riflessione. Abbiamo capito che il mondo stava ulteriormente cambiando e lì abbiamo pensato che il mercato avesse necessità di essere accompagnato sempre di più con prodotti, diciamo, a valore. Lì abbiamo costituito un'area di sviluppo e ricerca che abbiamo chiamato Master Lab, dove noi facciamo per i nostri clienti sviluppo di prodotto, oltre chiaramente a fare ricerca, diciamo, per migliorare i nostri processi. Nello stesso tempo, subito dopo, ho pensato che bisognava, diciamo, come dire, dare una qualità costante e sempre migliore, diciamo, ai nostri clienti. Quindi nel 2013 iniziai a studiare la Lean Production che società automobilistiche applicano all'interno delle loro organizzazioni. La Lean permette di avere un focus dal punto di vista della qualità e degli sprechi, cioè in realtà va ad eliminare qualsiasi tipo di spreco e mette in controllo l'azienda in termini qualitativi. Devo dire che oggi abbiamo tratto un notevole beneficio dalla Lean e in realtà abbiamo costituito anche all'interno dell'organizzazione un'area Lean che porta avanti questa filosofia. La naturale evoluzione di questa scelta porta alla creazione nel 2018 del Master Italy Process System, un insieme di metodologie e processi cuciti addosso all'azienda e che le permettono di lavorare in maniera più snella. Oggi Michele Loperfido, voce narrante di questa storia, guida l'azienda insieme alla moglie Maria Luigia La Catena e al cognato Leonardo, guardando all'eventuale futuro ingresso di una nuova generazione delle loro famiglie. C'è una nuova generazione, noi siamo tre soci all'interno dell'azienda, sono entrati tre dei nostri ragazzi all'interno dell'azienda, due sono i miei figli, un altro è la figlia di mio cognato, tra l'altro mio socio, per cui il nostro intento è quello di, come dire, accompagnare l'azienda, diciamo, a destini migliori. Però chiaramente è sempre importante capire quello che succede nel mondo. In questo momento stanno succedendo tante cose, quindi l'azienda è pronta a qualsiasi tipo di opportunità. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.